Ad alta voce, leggere il Decamerone. Masetto. Masetto dal lamporecchio si fa mutolo. E diviene ortolano d'un monistero di donne, le quali tutte concorrono a giacersi con lui. Bellissime donne, assai sono di quegli uomini e di quelle femmine che si sono stolti, che credono troppo bene che, come a una giovane è sopra il capo posta la benda bianca e indosso messole la nera cocolla, che ella più non sia femmina, né più senta de femminili appetiti, se non come se di pietra l'avesse fatta divenire il far la monaca. E se forse alcuna cosa contra questa lor credenza nodono, così si turbano, come se contra natura un grandissimo e scelerato male fosse stato commesso, non pensando né volendo avere rispetto a sé medesimi, li quali la piena licenza di potere far quello che vogliono non può saziare, né ancora alle gran forze dell'ozio e della sollecitudine. E similmente sono ancora di quelli assai che credono troppo bene che la zappa e la vanga e le grosse vivande e i disagi tolgano del tutto a lavoratori della terra i concupiscibili appetiti e rendan loro d'intelletto e d'avvedimento grossissimi. Ma quanto tutti coloro che così credono siano ingannati, mi piace, poiché la reina comandatomela, non uscendo della proposta fattaci da lei, di farvene più chiare con una piccola novelletta. In queste nostre contrade fu, e è ancora, un monistero di donne assai famoso di santità, il quale io non nomerò per non diminuire in parte alcuna la fama sua, nel quale, non ha gran tempo, non essendovi allora più che 8 donne con una badessa e tutte giovani, era un buono omicciuolo d'un loro bellissimo giardino ortolano, il quale, non contentandosi del salario, fatta la ragion sua col castaldo delle donne, al lamporecchio, laonde egli era, se ne tornò. Quivi, tra gli altri che lietamente il raccolsono, fu un giovane lavoratore, forte e robusto, e secondo uomo di villa, con bella persona, il cui nome era Masetto. E domandollo dove tanto tempo stato fosse. Il buono uomo, che Nuto aveva nome, gliele disse, il qual Masetto domandò di che egli il monistero servisse, a cui Nuto rispose: io lavorava un lor giardino bello e grande, e oltre a questo andavo alcuna volta al bosco per le legne, attingeva acqua e faceva cotali altri servigetti. Ma le donne mi davano sì poco salario che io non ne potevo appena pur pagare i calzari. E oltre a questo, elle son tutte giovani. E parmi che l'abbiano il diavolo in corpo, che non si può far cosa niuna a lor modo. Anzi, quando io lavorava alcuna volta l'orto, l'una diceva, pon qui questo. E l'altra, pon qui quello. E l'altra mi toglieva la zappa di mano e diceva, questo non sta bene. E davami tanta seccaggine che io lasciava stare il lavorio e uscivami dell'orto. Sicché, tra per l'una cosa e per l'altra, io non vi volli star più. E so me ne venuto. Anzi, mi pregò il Castaldo loro, quando io me ne venni, che se io n'avessi alcuno alle mani che fosse da ciò, che io gliene mandassi, e io gliele promisi. Ma tanto il faccia Iddio san delle reni quanto io o ne procaccerò o ne gli manderò niuno. A Masetto, udendo egli le parole di Nuto, venne nell'animo un desidero sì grande d'esser con queste monache che tutto se ne struggeva, comprendendo per le parole di Nuto che a lui dovrebbe potere venir fatto di quello che egli desiderava, e avvisandosi che fatto non gli verrebbe se a Nuto ne dicesse niente, gli disse: «Deh, come ben facesti a venirtene, che è uno uma star con femmine, e gli sarebbe meglio star con diavoli. Elle non sanno delle sette volte, le sei, quello che elle si vogliono elle non stesse». Ma poi, partito il loro ragionare, cominciò Masetto a pensare che via dovesse tenere a dovere potere esser con loro. E conoscendo che egli sapeva ben fare quegli servigi che Nuto diceva, non dubitò di perder per quello, ma temette di non dovervi essere ricevuto per ciò che troppo era giovane e appariscente, perché molte cose divisate seco immaginò. Il luogo è assai lontano di qui e niuno mi riconosce. Se io so far vista d'esser mutolo, per certo io vi sarò ricevuto. E in questa immaginazion, fermatosi, con una sua scura in collo, senza dire a alcuno dove s'andasse, in guisa d'un povero uomo se n'andò al monistero, dove pervenuto entrò dentro e trovò per ventura il Castaldo nella corte, al quale, facendo suoi atti come i mutoli fanno, mostrò di domandargli mangiare per l'amor di Dio, e che egli, se bisognasse, gli spezzerebbe delle legne. Il Castaldo gli diede a mangiar volentieri, e appresso questo gli mise innanzi certi ceppi che Nuto non aveva potuti spezzare, li quali costui, che fortissimo era, in poca d'ora ebbe tutti spezzati. Il Castaldo, che bisogno avea d'andare al bosco, il menò seco, e quivi gli fece tagliar delle legne, poscia messogli l'asino innanzi, con suoi cenni gli fece intendere che a casa ne le recasse. Costui il fece molto bene, perché il Castaldo, a far fare certe bisogne che gli eran luogo, più giorni vel tenne, de quali avvenne che uno la badessa il vide e domandò il Castaldo chi egli fosse, il quale le disse: «Madonna, questi è un povero uomo, mutolo e sordo, il quale, un di questi dì, ci venne per limosina, sì che io gli ho fatto bene e ho gli fatte fare assai cose che bisogno c'erano. Se egli sapesse lavorare l'orto e volesse ci rimanere, io mi credo che noi n'avremmo buon servigio, per ciò che egli ci bisogna, egli è forte e potrebbe nell'uomo fare ciò che volesse. E oltre a questo, non vi bisognerebbe d'aver pensiero egli motteggiasse queste vostre giovani. In fede di Dio tu di il vero. Sappi se egli sa lavorare e ingegnati di ritenercelo. Dagli qualche paio di scarpette, qualche cappuccio vecchio e lusingalo, fagli vezzi. Dagli ben da mangiare. Il Castaldo disse di farlo. Masetto non era guari lontano, ma facendo vista di spazzar la corte, tutte queste parole udiva e seco lieto diceva. Se voi mi mettete osta entro, io vi lavorerò sì l'orto che mai non vi fu così lavorato. Ora, avendo il Castaldo veduto che egli ottimamente sapeva lavorare, e con cenni domandatolo se egli voleva star quivi, e costui con cenni rispostoli che far volea ciò che egli volesse, avendolo ricevuto, gli impose che egli l'orto lavorasse e mostrogli quello che a fare avesse. Poi andò per altre bisogne del monistero e lui lasciò. Il quale, lavorando l'un dì appresso l'altro, le monache incominciarono a dargli noia e a metterlo in novelle, come spesse volte avviene che altri fa dei mutoli, e dicevagli le più scellerate parole del mondo, non credendo da lui essere intese. E la badessa, che forse stimava che egli così senza coda come senza favella fosse, di ciò poco niente si curava. Or pure avvenne che costui un dì, avendo lavorato molto e riposandosi, due giovinette monache che per lo giardino andavano s'appressarono là dove egli era, e lui, che sembiante facea di dormire, cominciarono a riguardare. Perché l'una, che alquanto era più baldanzosa, disse all'altra: se io credessi che tu mi tenessi credenza, io ti direi un pensiero che io ho avuto più volte, il quale forse anche a te potrebbe giovare. Di sicuramente, che per certo io non dirò mai a persona. Io non so se tu t'hai posto mente, come noi siamo tenute strette, né che mai qua entro uomo alcuno osa entrare, se non il Castaldo che è vecchio e questo mutolo. E io ho più volte a più donne che a noi son venute udito dire che tutte le altre dolcezze del mondo sono una beffa a rispetto di quella quando la femmina usa con l'uomo. Perché io m'ho più volte messo in animo, poiché con altrui non posso, di volere con questo mutolo provare se così è. Egli è il miglior del mondo, da ciò costui che, perché egli pur volesse, egli non potrebbe, né saprebbe ridire. Tu vedi che egli è un cotal giovanaccio, sciocco, cresciuto innanzi al senno. Volentieri udirei quello che a te ne pare. Oimè, che è quel che tu di? Non sai tu che noi abbiamo promessa la verginità nostra a Dio? Oh, quante cose gli si promettono tutto il dì, che non se ne gli attiene niuna. Se noi gliele abbiamo promessa, trovisi un'altra o delle altre che gliela attengano. O se noi ingravidassimo, come andrebbe il fatto? Tu cominci a aver pensiero del mal prima che egli ti venga. Quando cotesto avvenisse, allora si vorrà pensare. Egli ci avrà mille modi da fare sì che mai non si saprà, purché noi medesime non diciamo. Costei, udendo ciò, avendo già maggior voglia che l'altra di provare che bestia fosse l'uomo, disse: Orbene, come faremo? Tu vedi che egli è in sulla nona. Io mi credo che le suore siano tutte a dormire, se non noi. Guatiamo per l'orto, se persona ci è, e se egli non c'è persona, che abbia noi a far, se non a pigliarlo per mano e menarlo in questo capannetto, laddove gli fugge l'acqua, e qui vi l'una si stia dentro con lui e l'altra faccia la guardia. Egli è sì sciocco che egli s'acconcerà comunque noi vorremmo. Masetto udiva tutto questo ragionamento e, disposto a obbedire, niuna cosa aspettava se non l'esser preso dall'una di loro. Queste, guardato ben per tutto e veggendo che da niuna parte potevano esser vedute, appressandosi quella che mosse avea le parole a Masetto, lui destò. Egli, incontanente, si levò in piè, perché costei, con atti lusinghevoli, presolo per la mano, egli, facendo cotali risa sciocche, il menò nel capannetto, dove Masetto, senza farsi troppo invitare, quel fece che ella volle. La quale, siccome leale compagna, avuto quel che volea, diede all'altra luogo, e Masetto, pur mostrandosi semplice, faceva il lor volere. Perché, avanti che quindi si dipartissono, da una volta in su ciascuna provar volle come il mutolo sapeva cavalcare. E poi, seco spesse volte ragionando, dicevano che bene era così dolce cosa e più come udito aveano. E prendendo a convenevoli ore tempo, col mutolo s'andavano a trastullare. Avvenne un giorno che una lor compagna, da una finestretta della sua cella, di questo fatto avvedutasi, a due altre il mostrò. E prima tennero ragionamento insieme di doverle accusare alla badessa. Poi, mutato consiglio e con loro accordatesi, partefici divennero del poder di Masetto, alle quali l'altre tre, per diversi accidenti, divenner compagne in varii tempi. Ultimamente, la badessa, che ancora di queste cose non s'accorgea, andando un di tutta sola per lo giardino, essendo il caldo grande, trovò Masetto, il quale di poca fatica il dì, per lo troppo cavalcar della notte, aveva assai, tutto disteso all'ombra d'un mandorlo dormirsi. E, avendogli il vento i panni dinanzi levati indietro, tutto stava scoperto. La qual cosa, riguardando la donna e sola vedendosi, in quello medesimo appetito cadde che cadute erano le sue monacelle, e destato Masetto, seco nella sua camera nel menò, dove parecchi giorni, con gran querimonia dalle monache fatta, che l'ortolano non venì a lavorar l'orto, il tenne, provando e riprovando quella dolcezza la quale essa prima all'altre solea biasimare. Ultimamente della sua camera alla stanza di lui rimandatolone, e molto spesso rivolendolo, e oltre a ciò più che parte volendo da lui, non potendo Masetto soddisfare a tante, s'avvisò che il suo esser mutolo gli potrebbe, se più stesse, in troppo gran danno resultare. E perciò una notte, con la badessa essendo rotto lo scilinguagnolo, cominciò a dire: Madonna, io ho inteso che un gallo basta assai bene a 10 galline, ma che 10 uomini possono male o con fatica una femmina soddisfare, dove a me ne convien servir 9, al che per cosa del mondo io non potrei durare, anzi sono io, per quello che infino a qui ho fatto, a tal venuto che io non posso fare né poco né molto. E perciò o voi mi lasciate andar con Dio, o voi a questa cosa trovate modo. La donna, udendo costui parlare, il quale ella teneva mutolo, tutta stordì e disse: Che è questo? Io credeva che tu fossi mutolo. Madonna, io era ben così, ma non per natura, anzi per una infermità che la favella mi tolse. E solamente da prima questa notte la mi sento essere restituita di che io lodo Iddio quant'io posso. La donna se il credette e domandollo che volesse dir ciò che egli a 9 aveva a servire. Masetto le disse il fatto, il che la badessa udendo s'accorse che monaca non avea che molto più savia non fosse di lei, perché, come discreta, senza lasciar Masetto partire, dispose di voler con le sue monache trovar modo a questi fatti, a ciò che da Masetto non fosse il monistero vituperato. E essendo di quei dì morto il lor Castaldo, di pari consentimento, apertosi tra tutte ciò che per addietro da tutte era stato fatto, con piacer di Masetto ordinarono che le genti circostanti credettero che, per le loro orazioni e per li meriti del santo in cui intitolato era il monistero, a Masetto, stato lungamente mutolo, la favella fosse restituita. E lui Castaldo fecero, e per si fatta maniera le sue fatiche partirono, che egli le poté comportare. Nelle quali, come che esso assai monachin generasse, pur sì discretamente procedette la cosa, che niente se ne sentì se non dopo la morte della badessa, essendo già Masetto pressoché vecchio e desideroso di tornarsi ricco a casa sua. La qualcosa saputa di legger gli fece venir fatto. Così adunque Masetto vecchio, padre e ricco, senza aver fatica di nutricare i figliuoli o spesa di quegli, per lo suo avvedimento, avendo saputo la sua giovanezza bene adoperare, donde con una scure in collo partito s'era, se ne tornò, affermando che così trattava Cristo chi gli poneva le corna sopra il cappello. Glossario. Indosso messole, la nera cocolla che ella più non si... Cocolla. Era una sopravveste a forma di manto, usata in alcuni ordini religiosi. Io appena pur pagare i calzari! Calzari. Erano calze provviste di suole che servivano da scarpe. Dava-mi tanta seccaggine che io lasciava stare il... Seccaggine. Il termine indica noia, fastidio. Il suffisso aggine è caratteristico dei sostantivi astratti. Ma poi, partito il loro ragionare... Partito. Significa terminato, per l'allontanarsi, il separarsi degli interlocutori. Incominciarono a dargli noia e a metterlo in novelle, come spesse volte avviene... Metterlo in novelle. La locuzione vuol dire canzonarlo, burlarlo. Dal latino popolare, novella. Giovanaccio sciocco, cresciuto innanzi al senno. Cresciuto innanzi al senno. La locuzione vuol dire cresciuto, che ha sviluppato le proprie qualità fisiche a dispetto di quelle intellettuali. Con la badessa essendo rotto lo scilinguagnolo, cominciò a dire. Rotto lo scilinguagnolo. La locuzione significa cominciando a parlare. Letteralmente indicherebbe la rottura del frenulo sotto la lingua. L'aggettivo mutolo, che qualifica il protagonista, merita qualche precisazione. Si noterà intanto che è nel Decamerone termine esclusivo ad indicare tale handicap fisico. Manca infatti nell'opera del tutto l'aggettivo muto. Mutolo non è una formazione diminutiva del volgare, ma una voce che deriva direttamente da un diminutivo del latino volgare. Mutolo da mutulum, così come orecchia da auriculam e fratello da fratellum. Il campo semantico di mutulo, da cui deriva il nostro ammutolire, coincide tuttavia quasi completamente con quello di muto, salvo la connotazione di toscanità e di letterarietà che lo marca, almeno da un certo momento in poi. Non ancora nel Cinquecento, quando mutolo poteva per alcuni grammatici valere come termine tecnico, applicato a quella categoria di consonanti che altri in quello stesso secolo chiamavano mute. Ma l'uso frequente del vocabolo nello scapigliato Faldella a fine Ottocento e nel nostro secolo il suo ricorrere in due scrittori come D'Annunzio e Gadda, tanto diversi eppure accomunati dall'esasperata ricerca lessicale, sono due conferme dell'alone di preziosità di cui il vocabolo si è via via circondato, almeno fuori Toscana. Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.